ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Alcune settimane fa abbiamo parlato del mito di Leda e dell'uovo, dal quale nascono la bellissima Elena e i gemelli Castore e Polluce. L'uovo è un simbolo potente, presente in molte mitologie e religioni. La ragione è facilmente intuibile: l'uovo rappresenta la vita. Non a caso è collegato con la primavera e con la Pasqua. Le uova pasquali, di cui traboccano in questi giorni le vetrine, hanno alle spalle una lunga serie di uova, comparse in civiltà e ambienti assai diversi. Nel mondo greco, l'uovo è presente nell'orfismo, nel pitagorismo e nel neoplatonismo. Compare nell'ebraismo, in particolare nella Cabala, ha un valore pregnante nell'ermetismo e nell'alchimia, ha grande importanza nel cristianesimo. Partiamo da quest'ultimo. Nelle chiese medievali, l'uovo rappresenta la natura divina del Cristo ed è simbolo di resurrezione, proprio come le nostre uova pasquali. Per questo veniva spesso appeso in alto, in posizione visibile a tutti i fedeli. Come spesso succede, accanto al motivo ideale si affiancava anche una ragione concreta. Appeso alla catena delle lampade a olio, l'uovo impediva ai topi di raggiungere il contenitore dell'olio di cui sono ghiotti. Notissimo è l'uovo di struzzo che, nel celeberrimo dipinto di Piero della Francesca, Madonna col Bambino, Santi, Angeli e il Duca Federico da Montefeltro del 1475, pende al di sopra della testa della Madonna, in capo a un filo attaccato all'estremità della grande conchiglia nella quale termina il soffitto a volta. Gli antichi credevano che gli struzzi non covassero le uova, ma le facessero schiudere soffiandoci sopra. Attribuivano perciò all'uovo di struzzo virtù particolari, in qualche modo magiche, e questo spiega perché nel quadro di Piero della Francesca compaia l'uovo di un uccello raro, tanto più a quei tempi, ed esotico. Nella raffigurazione di Piero della Francesca, l'uovo di struzzo è emblema della perfezione divina e, essendo in posizione leggermente sfalsata rispetto all'asse mediano, rappresenta la superiorità della fede sulla ragione. Interessante anche la conchiglia, che rappresenta invece la natura generatrice della Vergine e il suo legame con il mare e con le acque. L'immagine della conchiglia evoca la nascita di Venere, divinità datrice di vita, mentre l'uovo, collocato sullo sfondo della conchiglia, sembra una perla. Più inquietante è la presenza dell'uovo nella simbologia alchemica. Gli alchimisti chiamavano uovo alchemico o uovo filosofale l'Athanor, cioè il forno in cui avveniva la combustione che avrebbe dovuto portare alla creazione della pietra filosofale. In esso infatti avviene la cova e il forno uovo è come un utero nel quale avviene la gestazione della pietra filosofale, che è panacea universale, fonte di onniscienza, nonché strumento di trasformazione dei metalli vili in oro. Di fatto la fantasia popolare ha ricamato solo su quest'ultima proprietà della pietra filosofale. Per gli alchimisti probabilmente erano più importanti le precedenti, soprattutto la seconda, cioè quella di essere fonte di conoscenza assoluta e universale. Non a caso l'uovo è anche simbolo di onniscienza. Ma lasciamo gli oscuri simboli alchemici per tornare alle uova dolci e colorate che rallegrano, soprattutto per i bambini, le feste pasquali. L'uso di regalarsi delle uova a primavera risale addirittura agli Egizi, che pare le decoravano e ne facevano dono ad amici e parenti in occasione dell'equinozio primaverile. Un'usanza simile esisteva anche fra i Greci, i Romani e addirittura i Cinesi, a riprova dell'universalità della simbologia dell'uovo. A tempi molto più vicini a noi risalgono le uova di Fabergé, il maestro orafo che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro l'incarico di creare un dono speciale per la zarina. Fabergé creò un uovo di platino smaltato bianco che si apriva per rivelare un uovo d'oro che a sua volta conteneva un pulcino con una miniatura della corona imperiale. Il dono fu talmente gradito che da allora Fabergé fu incaricato di creare ogni anno una serie di preziosissime e coloratissime uova. Il nostro viaggio termina qui, anche se, volendo, potrebbe estendersi a molti altri tempi e luoghi. Parlare di uova significa andare all'essenza della vita ed evocare perciò situazioni e storie senza fine. Pensateci la prossima volta che ricevete o regalate un uovo di Pasqua. È un dono molto più prezioso e significativo di quanto si creda. A tutti buona Pasqua e a risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla.